camminare la città per riconoscerla, indagare insieme un territorio, celebrare i luoghi con i propri passi, nominare gli spazi della città come si dà il nome a un bambino, sottolineare i percorsi, i vuoti, i pieni, il non conosciuto, il quotidiano, radunare persone sulla stessa strada, farsi domande insieme, attraversare con il proprio corpo le conflittualità di un luogo, moltiplicare occhi, orecchie, piedi, lingue, desideri, deviazioni, incontri, relazioni. Leggere la forma urbana come fosse una geometria, mettersi nelle scarpe di chi vive o abita un quartiere. Raccontare la città da un punto di vista orizzontale. Rappresentare uno spazio urbano senza imporre un punto di vista. Osservare quello che già c'è come fosse un'opera d'arte. Ascoltare il suono di un quartiere. Ricordare quello che c'era qui ieri, prima di adesso. Sentire sotto i piedi l'asfalto ruvido, il marciapiede dissestato, il campo incolto. Agire la città in scala 1 a 1. Ricostruire la mappa in divenire delle trasformazioni in atto. Riconnettere in un filo unitario i frammenti di città separate in cui viviamo. Reinventare percorsi dimenticati, chiusi, sconnessi. Imparare ad ascoltare.